Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani. Dall'idea alla sua realizzazione, non c'è niente di più personale nel lavoro di un imprenditore dell'illuminazione da cui è nata la sua storia aziendale. E sono i nuovi eroi quelli che riescono a far crescere nonostante tutto l'impresa. Inizia oggi un percorso per alzare il velo su una laboriosa realtà, quella degli imprenditori piccoli e medi, aziende del nord e del sud, che trovano spazio e si raccontano in prima persona in Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Come Roberto Crepaldi, CRS Motorcycles. È un'azienda milanese che produce in piccola serie motociclette fatte su misura per intenditori delle due ruote. Ciascuna ha un nome in dialetto lombardo. Artigianalità come link tra tradizione e innovazione e come strumento per salvare il sistema dalla crisi. Si tratta dell'unico costruttore di veicoli rimasto a Milano a continuare la tradizione meccanica della città. Anima e fondatore della CRS è Roberto Crepaldi, che nella sua lunga carriera nel mondo dei motori vanta tra le altre cose una collaborazione ventennale con Enzo Ferrari e il merito di aver introdotto in Italia la Harley Davidson con la società numero uno insieme a Carlo Talamo. Ecco come si è accesa la lampadina che ha portato al giocattolo su due ruote per adulti. Si è accesa circa 15 anni fa. Io vengo da un'esperienza familiare di carattere commerciale, ho sempre commercializzato veicoli di lusso, ovviamente prodotti da altri, sia nel campo delle due ruote che delle quattro ruote. Ho avuto a che fare con due personaggi che mi hanno sicuramente dato un esempio molto illuminante, che sono stati Enzo Ferrari, con il quale ho lavorato quasi 15 anni prima della sua morte. Basta pensare che nel 1947, quando lui ha costruito la prima Ferrari, nel primo dopoguerra c'erano solo macerie, lui ha fatto 1512 cilindri dal nulla, quando qui da noi non c'erano quasi le automobili, quindi una visione abbastanza azzardata. E il secondo esempio, che è stato ancora più forte, è stato nell'inizio degli anni 90, quando io lavoravo ancora nell'auto e nella moto dal punto di vista commerciale, ma mi ero un po' saturato, diciamo. Ho conosciuto questo ingegnere neozelandese che si chiama John Britten, che faceva il designer oltre che l'ingegnere, che aveva realizzato nel suo garage a Christchurch, nell'isola del sud della Nuova Zelanda, una moto costruita a mano da lui e da dei suoi amici, 4-5 persone, una moto da corsa che porta il suo nome, si chiama Britten, e tutt'oggi oggi è un esempio di tecnica e di design insostituibile e incomparabile. Come è nata la moto su misura? Per due ragioni. Prima di tutto perché io stesso sono motociclista e tutti i motociclisti prendono l'oggetto che hanno in mente e poi lo adattano alle proprie esigenze. E ho solo realizzato in pratica questo tipo di abitudine del motociclista, dandogli la possibilità di farlo a tutti, ma non dopo. Prima, all'origine, quindi costruendole insieme con noi. Dall'idea, la parte più dura e più difficile è quella di realizzarla. Quali sono le difficoltà che hai incontrato subito? Quali sono gli impatti più forti che ha avuto nel realizzare la sua moto su misura? La prima moto è quella che produciamo adesso, è una monocilindrica stradale che si chiama VUN ed è un prodotto molto specialistico, molto di nicchia, di super nicchia. Quando abbiamo realizzato il prototipo, che è stato realizzato da noi in collaborazione con la Patton, che è una storica azienda milanese che produce solo moto da corsa da più di 50 anni e ci ha aiutato nella realizzazione del prototipo, per me era il primo prototipo. Fatto il prototipo funzionava bene, erano tutti contenti, però a un certo punto mi hanno detto, beh, adesso bisogna industrializzarla. Quanti giorni ci ha messo per fare? Abbiamo messo dal foglio di carta bianco, adesso sei un computer, però è modo di dire, dall'inizio del disegno alla realizzazione del primo prototipo un anno e mezzo, alla prima moto funzionante. Quando è arrivato il momento della svolta, chi è che l'ha aiutata? C'è stato un aiuto di un amico, della famiglia? Sì, sicuramente. No, l'aiuto è stato da parte di questi due miei cari amici, che oggi sono i miei soci, e poi anche di Pattoni, che in piccola parte è socio anche lui in questa iniziativa, i quali sono Giovanni Cavassi e Giorgio Sarti. Sono amici perché li conosco da molto tempo e soprattutto entrambi sono appassionati di motociclisti. L'amicizia e la moto per me sono imprescindibili. Hanno risorse economiche e insieme a me, insieme a quelle poche che avevo anch'io, abbiamo messo insieme, diciamo, le risorse per partire. Adesso la sua moto viaggia bene e ha anche, diciamo, delle prospettive buone, nonostante il periodo di crisi. Ecco, questa crisi vi ha dato qualche colpo? Il modello attuale, appunto, la monocilindrica, come tutti i prodotti in questo momento, ha subito una flessione di domanda che più o meno è simile alla flessione generale del mercato della moto, del 25-30%. 5%. Nel contempo però noi avevamo budgetato di realizzare la seconda moto, il secondo modello della gamma, e il budget era già stato pianificato e siamo andati avanti. In questi anni di minore lavoro commerciale abbiamo avuto forse più tempo da dedicare all'aspetto progettuale. Di acquisto fatto su misura e quindi fatto per durare. Parliamo di numeri, quanto costa, quanto fatturato più o meno potete avere e quanti ordinativi avete, nel senso per capire quante persone vogliono questa moto su misura? La monocilindrica, quella che facciamo adesso, ne facciamo circa una trentina all'anno. La bicilindrica, la moto nuova, si chiama DU perché è di due cilindri, due litri di cilindrata, quindi il milanese DU. E la differenza è stata che la prima è stata fatta in 100 esemplari in 3 anni. Questa qui l'abbiamo presentata lo scorso Salone di Milano a novembre e ad oggi sono passati 5 mesi e ne abbiamo avuto prenotazioni per 100 moto. Un ordine di spesa da A? Costerà dai 20.000 euro, che è circa il prezzo della versione base, fino penso intorno ai 25-30 mila massimo. Il dialetto è una cosa importante per le sue moto? È una cosa ironica, cioè l'idea di usare il dialetto per tutto quello che abbiamo impostato è per due ragioni. La prima, per rimarcare, come dire, la cultura e la tradizione della meccanica, della manifattura meccanica, che è una cosa assolutamente lombarda e assolutamente milanese. Cosa c'è scritto? Sulla moto c'è scritto "Fada su a Milano con tilchiore con timan", che vuol dire chiaramente, vabbè, traduco, fatta a Milano col cuore, con le mani. La seconda cosa era appunto per, come dire, fare un contraltare al fatto che Milano oggi è conosciuta in tutto il mondo per motivi molto importanti come il design, la moda, i servizi, l'editoria appunto, ma alla base di tutto questo c'è comunque l'industria meccanica in Lombardia, che è quella che sostiene veramente, sono le manifatture. E quindi far presente che ci sono ancora. Com'è viaggiare in moto? Come può trasmettere questa sensazione? È molto facilitato dal fatto che chi viaggia in moto, chi usa una moto, sa benissimo di cosa parla. Cioè, nel senso che è una, come dire, è una specie di setta mondiale di persone che sanno certe cose e hanno certe sensazioni, le altre no, peggio per loro. Se vogliono provarci, le braccia sono aperte. Dalla moto alla bici. Anche qui, pedalando dietro un'idea nata per una passione per il ciclismo, Roberto Peia ha creato Urban Bike Messengers, un modo verde per fare consegne in bicicletta a Milano, che non solo è ecologico, ma aiuta la città a ridurre il traffico, attivo agli stessi prezzi e con gli stessi tempi dei pony express tradizionali, anche quando piove. Da piccoli pacchi a consegne cargo di 50 kg, un modo per fare impresa facendo del bene all'ambiente. La scelta è arrivata in un momento di congiunzioni astrali particolari mie e dei miei 3 soci. Luca si era appena laureato in ingegneria energetica, Andrea si era stancato di fare lo chef in grandi ristoranti e io, da giornalista professionista, mi ero trovato improvvisamente senza contratti. Avevamo avuto questa idea, abbiamo pensato che potesse essere il momento giusto anche per Milano, dove si stavano muovendo diverse cose per quanto riguarda l'utilizzo della bicicletta, e abbiamo iniziato a pensare di mettere in piedi la prima agenzia di delivery, di consegne a pedali. Qual è stato il momento in cui avete pensato alla bicicletta? La bicicletta era per tutti e tre un amore, quindi l'avevamo sempre in mente. L'abbiamo pensato quando ci siamo trovati finalmente davanti a un tavolo, abbiamo iniziato a vedere cosa c'era in giro, soprattutto in America, a Londra, a Berlino, e forse la scintilla è scattata quando siamo andati a trovare i più vicini a noi, Oltralpe, cioè gli svizzeri, le Sette Verdi di Lugano. Con loro abbiamo detto ok, ce la potremo fare anche noi. Se funziona qua a Lugano, che è piccola e ha le montagne in mezzo, Milano, che è un po' più avanti ed è bella piatta, potrà funzionare anche lì. Quanto è passato e cosa avete dovuto affrontare subito per arrivare almeno a iniziare la vostra impresa? Le vere difficoltà sono iniziate quando ci si scontra con la burocrazia italiana. Si racconta che si riesce ad aprire un'azienda in poco tempo, in realtà noi ci abbiamo impiegato diverso tempo per riuscire a capire innanzitutto che tipo di struttura societaria darsi e poi appunto quali passi fare per avviarla. Ora siamo una SRL, Paura, scoraggiamento, come avete vissuto questi momenti iniziali? Io soprattutto con molta rabbia, perché sei convinto di avere una buona idea, e così è stato, sei convinto che possa iniziare a marciare subito e ti trovi invece a dover affrontare uffici che non sanno bene cosa dirti. Lo scoraggiamento non è arrivato, abbiamo tenuto duro perché l'idea appunto ci sembrava buona, ci sembrava vincente, ci sembrava il momento giusto, e i fatti ci hanno dato ragione, perché adesso siamo ormai una società ben avviata con 150 aziende come clienti fisse, felici e contenti. Siamo una realtà che è stata copiata anche da altre città e siamo i capofila di un network nazionale. Cos'è stato lo scoglio più duro rispetto a essere giornalista? Passare da una vita davanti al monitor a scrivere o a intervistare altre persone, a quello di innanzitutto avere a che fare con un cliente e poi passare da un lavoro completamente sedentario ad un lavoro invece in cui si suda, in cui almeno 60 km al giorno in città io me li faccio. Quando è arrivata la consapevolezza che ce la stavate facendo? La consapevolezza, in termini forse più psicologici che reali, è arrivata al raggiungimento del 100° cliente. Siete in fase di reclutamento? È iniziata dal momento in cui abbiamo messo online il nostro sito con una pagina Pedala con noi. Siamo arrivati a più di 600 proposte di collaborazione. Con quali numeri conta di migliorare l'area di Milano? Quante persone saranno necessarie? Sul nostro sito, che è www.urbanbm.it, abbiamo un piccolo software che misura le quantità di CO2 che vengono risparmiate pedalando per ogni consegna. Quali tempi di consegna, per esempio? In città, da un capo all'altro, da nord a sud, una consegna veloce la garantiamo in 45 minuti. Figuratevi quanto non siamo veloci nel centro di Milano. Quali sono i costi e qual è il peso massimo? Sono molto in linea con i costi dei pony express tradizionali a motore. Dal punto di vista della vita, come è cambiata la sua vita e quali sono, diciamo, i vantaggi e gli svantaggi di adesso? Spiegare alla mia mamma che, dopo aver fatto il liceo classico, l'università, l'esame di giornalista, adesso facevo il fattorino, ma anche l'imprenditore, è stata la cosa più dura. Ma scherzi a parte, spiegare ai figli che tipo di scelta stavo facendo non è stato molto semplice. Anche gli amici più stretti che dicono: come, abbandoni una professione così sicura per una cosa così incerta? Invece, visto appunto il successo, mi guardano con un occhio diverso. Tengo anche sotto controllo la pancia. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.